ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, buon mattino. E sì, abbiamo sentito colpi di tosse in apertura. Di questi tempi basta un colpetto di tosse a metterci in allarme, ma calma, facciamo chiarezza. In linea con noi abbiamo la professoressa Paola Rogliani, associato di malattie dell'apparato respiratorio, Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università di Roma Tor Vergata, che ringrazio. Professoressa, buongiorno, grazie per essere a Obiettivo Salute e Risveglio con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Professoressa, ci aiuti a fare un po' chiarezza. C'è tosse e tosse, quella che Ippocrate chiamava la voce del polmone. Diciamo che ha tante sfumature, ci sono tante cause dietro alla tosse. La tosse è un meccanismo estremamente complesso e parte come un meccanismo fisiologico, perché serve essenzialmente a liberare le vie aeree da qualcosa. Naturalmente ci troviamo in un momento storico che un piccolo colpo di tosse scatena una situazione di allarme, però la tosse veramente riconosce tante cause. I soggetti che ne sono affetti imparano a riconoscerne anche le differenze. Abbiamo la tipica tosse del fumatore che insorge perché il fumo determina un'infiammazione a basso grado con una iperproduzione di muco, quindi è un meccanismo per liberare dal muco le vie aeree, ma esiste anche altri tipi di tosse che insorgono in condizioni di infezioni, come anche in situazioni di patologia legate ad uno stato infiammatorio. E ad esempio? Sicuramente l'asma è una può essere un campanello d'allarme importante al quale fare attenzione, perché può insorgere in concomitanza di situazioni sempre le stesse, per esempio seguito a degli sforzi, e quindi uno riconosce che in seguito a quello sforzo o in seguito a quella stagionalità, magari in primavera c'ha quella tossetta fastidiosa che poi si riduce anche in maniera autonoma talvolta. Quindi noi spesso associamo l'asma al sibilo, non è solamente questo il segno che deve... Non necessariamente. Ma anche ad esempio proprio la tosse dopo lo sforzo. Vado in palestra, vado a correre, faccio una rampa di scale velocemente, mi viene quella tossetta, attenzione, potrebbe trattarsi di asma. Potrebbe trattarsi di asma. E, per cui è necessario fare dei controlli adeguati. E infatti in questi giorni abbiamo proprio una campagna proprio per sensibilizzare a questo aspetto del controllo e del sommerso, perché è una delle condizioni, l'asma, che affligge milioni di persone nel mondo. Siamo a oltre 300 milioni di persone nel mondo, per cui è una ogni 20. Esatto, una ogni 20, e nelle fasce particolarmente colpite sono soprattutto i bambini e i giovani adulti, senza però tralasciare anche una piccola quota di pazienti dove l'asma insorge in età matura, ma la maggior parte sono bambini e giovani adulti, ai quali si fa poca attenzione magari al sintomo e viene invece messo in relazione ad altre condizioni prevalentemente di natura infettiva, ma invece può essere asma che va controllata, perché l'obiettivo è questo. Professoressa Rogliani, il controllo, lei citava una campagna? Sì, stiamo adesso con la Società Italiana di Pneumologia, ma in associazione anche con l'Associazione Pazienti Federasma e la Società Italiana di Allergologia. Quest'anno, come negli ultimi 3-4 anni, abbiamo indetto questa campagna che si chiama Asma Zero Week, dove per tutta la settimana si può prendere appuntamento gratuito per fare un controllo proprio con il focus sul sulla condizione respiratoria asmatica. Sito Asma Zero Week con numerosissimi centri specializzati in tutta Italia. E quindi per sensibilizzare e effettuare questi controlli nei centri specializzati. Professoressa, ma mi aiuti a capire, l'asma è una malattia infiammatoria cronica? Sì. Ecco, spesso invece si sente dire, ma ho un pochino di asma, mi è venuto un po' d'asma, come se fosse questa malattia andasse e venisse e comunque si guarisse, in realtà va tenuta sotto controllo. Ci aiuti a capire per bene? Lei ha detto e ha usato parole giustissime, perché è una condizione infiammatoria e cronica. Il cronico spesso viene un po' tralasciato o dallo stesso paziente, non sposa questo concetto di cronicità che purtroppo è lì, e la malattia è lì e va gestita e va modulata nelle fasi stagionali e durante la vita, per cui bisogna capire che è una situazione che va controllata, tant'è che l'obiettivo del trattamento dell'asma è proprio il controllo, ovvero il controllo dei sintomi, che può essere appunto il sibilo che diceva lei, può essere questa tossetta fastidiosa, può essere questa sensazione di oppressione toracica in seguito a particolari situazioni, incluso lo sforzo. E il controllo è uno degli obiettivi principali del trattamento dell'asma, quindi capire che è una condizione cronica che va compresa per poterla meglio poi trattare nel corso degli anni. Professoressa Rogliani, lei ha sottolineato che a soffrirne sono anche i bambini, perché questa malattia infiammatoria cronica delle vie aeree compare proprio anche nell'infanzia. Io vorrei che lei mi aiutasse a mandare un messaggio ai genitori. Il paziente asmatico, di qualsiasi fascia faccia parte, può fare sport, anzi è fortemente consigliabile che faccia sport. Naturalmente ci sono degli accorgimenti che uno deve mettere in pratica: non fare sport quando l'aria è particolarmente fredda o secca, evitare le ore centrali quando c'è molto polline nell'aria, se si ha un asma di tipo allergico, fare dell'esercizio fisico non farlo se si è raffreddati, e prendere soprattutto la terapia prima di fare lo sport praticato, per cui essere in contatto e ricordarsi, quando si parla con il proprio medico curante, la volontà di iniziare una attività sportiva, perché gli saranno dati proprio degli accorgimenti anche terapeutici al fine di farlo in totale sicurezza. Non bisogna dimenticare che l'asmatico veramente può fare tutto. Pensiamo ai giochi olimpici, quasi il 20% dei nostri atleti hanno l'asma, per cui non è una condizione che preclude questo tipo di attività anche a livelli molto alti, per cui sì, deve fare sport ed è consigliabile che lo faccia, ma che lo faccia in sicurezza, confrontandosi con il proprio medico curante. Professoressa, in chiusura torniamo a parlare di Covid. Le persone che soffrono di asma o di malattie respiratorie sono più esposte a forme gravi. Quali attenzioni e precauzioni devono avere? Allora, le precauzioni che devono avere sono quelle che devono avere tutti, quindi il distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina, il lavaggio continuo e costante, insomma, delle mani, un'igienizzazione generale, ma queste sono le norme che tutti devono adottare, ed è ormai diventata una nostra pratica quotidiana. Ma i pazienti affetti da condizione ostruttiva quale l'asma non hanno una maggiore predisposizione rispetto ad altri a contrarre il virus. C'è uno studio recentemente pubblicato proprio dal Registro Italiano Nazionale, quindi dei pazienti affetti da asma grave, dal quale sono emersi dei dati molto interessanti, perché in questo gruppo di pazienti è venuto fuori che tasso di mortalità, e quindi parliamo proprio delle forme più gravi di Covid in asma, è meno della metà rispetto alla popolazione generale. Nella popolazione generale di circa il 14%, mentre invece nei pazienti affetti da asma grave, che è la forma più grave appunto di asma, è del 7%, quindi la metà. Alcuni in letteratura mettono in correlazione questo dato con l'utilizzo che si fa della terapia che in genere viene fatta dai pazienti con asma, che prevede anche l'utilizzo del corticosteroide inalatorio, il cortisone fatto per via inalatoria, che probabilmente può aiutare nel prevenire o nel ridurre lo sviluppo di quelle che sono le infezioni, incluso il coronavirus, quindi la sintomatologia associata ad esso. Professoressa Rogliani, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, a presto. A voi. E per oggi è tutto, come sempre vi aspetto dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi, come sempre, per i nostri incontri video sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.